Italia in controluce. La puntata di oggi, 10 maggio, in studio Daniele Biacchessi, l'abbiamo chiamata così: PD è l'ora della resa dei conti. Sì, perché la base del PD è in rivolta dal giorno della votazione a Camere Riunite in cui 101 parlamentari hanno bocciato la candidatura di Romano Prodi alla guida del Quirinale. Molti circoli locali del PD restano ancora oggi occupati, soprattutto dai giovani democratici che chiedono a gran voce l'azzeramento dei vertici e un congresso vero. La Brianza di Pippo Civati è in rotta contro i vertici milanesi, poi gli scontri interni in Emilia Romagna, Toscana e ancora l'emorragia dei voti, lo scollamento degli elettori, la guerra tra vecchia guardia e che non sembra mollare e nuove leve a riviste che sembrano perfino peggiori della classica nomenclatura. In tutto questo c'è l'attendismo di Matteo Renzi. Così il PD va domani all'assemblea a Roma. Al PD, secondo voi, ve lo dico al 349-238-6666, serve ora una guida forte oppure una soluzione transitoria? Magari, come qualcuno dice, una segreteria di reggenti che traghetti il partito verso il congresso. Può essere questa una soluzione oppure secondo voi il progetto del Partito Democratico è ormai, si è ormai esaurito da alcune settimane, da alcuni mesi, cioè da quando soprattutto secondo un pezzo dell'elettorato il PD si è alleato con il PDL. Allora vi ricordo 349-238-6666, sto guardando in questo momento svariate pagine che trovate sul nuovo numero dell'Espresso che titola Big Bang, che manifestano più di ogni altra cosa la protesta diffusa all'interno del Partito Democratico con tutte le faide di quelli che vengono chiamati i vari capi clan, e c'è anche una ottima, bellissima infografica che fa parlare di differenza di voti nel Partito Democratico al Senato nelle elezioni politiche del 2013 rispetto al 2008, questa enorme emorragia di voti che è già partita da diversi anni e che ha soprattutto il suo apice in alcune regioni come il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Calabria, la Puglia e anche il Piemonte e la Lombardia. Stiamo parlando, e anche in Emilia Romagna vedo addirittura meno 6,28% nella differenza tra 2008 e 2013. Insomma, che partito democratico deve essere secondo voi? Una guida forte oppure una soluzione transitoria? Magari mi piacerebbe che si esprimessero anche molti degli elettori del Partito Democratico o degli ex elettori del PD perché ci spiegano un po' le loro ragioni. Qualche sms è già arrivato. Comunque sarà impossibile votare PD se non escono i nomi dei 101 traditori. Progetto PD sempre vivo, dice Maria Rosaria, ma siamo sicuri che c'è una soluzione all'interno del PD, ci scrive Antonio, sempre solo Bersani. Mi dispiace che il PD è morto, deve persino cambiare nome. C'è qualcuno che è un po' critico con Civati, dice: ma quale Brianza di Civati? Civati rappresenta sia no se stesso, solo Bersani, questi, l'unica soluzione è sciogliere il PD, accozzaglia di ex democristiani ed ex comunisti che mai potranno convivere insieme, dice Mattia da Brescia. Il futuro candidato premier non può che essere il nuovo segretario, subito Renzi, un altro ascoltatore, se vogliono salvare la baracca. 349-238-6666, sono collegato con Elisabetta Fiorito. Buongiorno Fiorito. Buongiorno Daniele. Beh, intanto bisognerebbe dire anche ai nostri radioascoltatori che il PD, potremmo definirlo così, molto democratico, perché ci sono tantissime anime all'interno di questo partito. È vero quello che si dice, che il PD è da quando che è nato che si dice che è a rischio estinzione, ma rappresenta anche quell'area moderata di sinistra che poi ha delle basi sullo stato sociale, su una certa politica economica che è in contrasto con il PDL. È chiaro che Pippo Civati, un pochino il giovane, no, che guida i giovani ribelli, ha addirittura segnalato che domani all'Assemblea Nazionale, che si terrà poi alla Fiera di Roma, scatti addirittura la rissa. Dice: perché se poi c'è il voto segreto siamo in mano ai franchi tiratori. Ma non ancora chiaro, e questo è nella confusione, la confusione regna sovrana nel Partito Democratico, se si andrà verso un reggente o verso un segretario, Daniele, capito? Per il reggente si fa il nome di Anna Finocchiaro, un reggente traghetterebbe il partito fino al congresso previsto in autunno. Ma i bersaniani, franceschiniani e lettiani temono a questo punto proprio i franchi tiratori. Per un nuovo segretario invece subito si potrebbe far ricorso a dei nomi che sono all'interno del partito: Piero Fassino, Sergio Chiamparino, Vannino Chiti. Altra possibilità, e sembra quella oramai più probabile, che venga addirittura eletto o come segretario o come reggente Roberto Speranza, neo capogruppo alla Camera, che diventerebbe segretario reggente, e Pierluigi Bersani diventerebbe capogruppo alla Camera, in modo tale da far capire che poi la vecchia guardia sta passando la mano. Ecco, stai descrivendo una una grafica, un'infografica di una tristezza direi incommensurabile. Questo lo devo dire da appassionato di politica. Sento dei nomi che secondo me, da vecchio cronista parlamentare ed esperto di politica, temo che certi personaggi ai tempi, io parlo ancora di quando c'era il Partito Comunista, ma fino anche quando era il PDS, manco neanche il centralinista di Bottego Squeglie gli facevano fare a certi nomi che tu hai citato. Vabbè, questa è una mia... Daniele, allora si può anche dire che allora che fai? Rimpiangi Togliatti e scrivi con la penna verde? Assolutamente, ma dico che veramente se questo è il nuovo, veramente mi viene da piangere. Grazie Elisabetta, staremo a vedere, perché poi Betta seguirà naturalmente domani questa assemblea del Partito Democratico. Da Lidia, che dice: un partito che abbandoni le nostalgie stalinisti e simili. Un ex elettore di Siena dice: congresso subito con guida forte nuova, fuori tutto l'attuale vertice. Meglio il PD che si cimenta nei congressi e non nelle piazze, ad urlare nelle piazze per conto del caimano, scrive Andrea. Il PD aveva avuto l'occasione per non morire, presentare Renzi anziché Bersani, dice Daniela da Viareggio. Sono diventati dei preti, dice Fornella, un'altra ascoltatrice. Serve un chiarimento di fondo, che se si dovesse importare ad una spaccatura, dice Francesca. Vediamo. Continuiamo a leggervi i vostri sms, sono tantissimi, 349-238-6666, teniamo la macchina, cambiamo gli autisti, sia la reggenza, il congresso della base sovrano, dice Luca Valsecchi da Calolzio Corte. Il PD gradito i suoi elettori per anni è riuscito allo scoperto, graziando Berlusconi con il quale collabora. Secondo Max il PD non è mai esistito, Renzi è un nuovo arrivista, ma sono tantissimi quelli che chiedono Renzi subito, Renzi subito, Renzi forever. Comunque la si pensi, da qualsiasi angolo la si guardi, la dirigenza del PD, dice Stefano da Trento, non ne ha azzeccata una, ne traggono subito le debite conclusioni. Sicuramente per Renzi, dice, come al solito non si candida aspettando tempi migliori, come al solito si mette in gioco per finta. Il PD fallito da dirigenti falliti, e Renzi è un bluff, secondo Nicola da Roma. ancora guida forte, ma New Generation, Roberto da Arona. L'eutanasia serve al PD, inutile continuare con l'accanimento terapeutico. Andrea, 46 anni, Milano da 20 anni, elettore del PD, cioè penso non proprio solo elettore del PD, ma del PD e del PDS ancora prima. C'è questo simpatico Antonio da Pescara che mi chiede se a me manca molto Bersani, insomma, a me manca veramente, veramente poco di tutto quello che vedo. Scommetterebbe, secondo questo Antonio da Pescara, a me piacerebbe molto la Puppato o Fassina oppure il Mortadella o la Cariatide Finocchiaro. Insomma, ha le idee chiare questo signor Antonio da Pescara. Cara, io vi ringrazio e comunque ringrazio perché siete veramente bravi, siete tantissimi, riuscite in pochissimi secondi a darci anche veramente il polso della situazione su ogni tema. Ci risentiamo lunedì alla stessa ora, 13:30, Italia in controluce.